Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, immagino che alcuni di noi, non so se tanti di noi, si dedicheranno in questo periodo di vacanze a un'attività particolare, quella del camminare. Beh, chi si dedicherà a questa attività sappia che sta compiendo una rivoluzione, almeno questa è la tesi di Adriano Labucci esposta nel libro Camminare, una rivoluzione, pubblicato da Donzelli, 150 pagine, 15 euro. La rivoluzione, secondo Labucci, consiste nella resistenza che attraverso il camminare si manifesta nei confronti della tecnica diventata, scrive, da mezzo fine e destinata ad accrescersi indefinitamente. Questo è un fondamentalismo al quale Labucci affianca quello religioso, rispetto al quale pure il camminare sarebbe un antidoto. Su quest'ultima tesi ho qualche riserva, visto che molti esprimono la loro fede religiosa proprio camminando, e ne parleremo anche nella nostra trasmissione. Ma insomma, è comunque interessante il libro di Labucci per la fiducia taumaturgica che dimostra in questa attività antichissima, quella del camminare, confortata da una massa ricchissima di citazioni che troviamo nel libro. Nel camminare l'autore individua la libertà, proprio perché camminare ci rende liberi, scrive, e della libertà l'autore offre una personale interpretazione che non ha nulla a che fare con quella corrente. Insomma, camminare per lui diventa un impegno ideologico e politico che punta anche al recupero dei centri storici, nei quali per la verità diventa sempre più difficile passeggiare e appunto camminare. Il camminare proprio è al centro del nuovo libro di Enrico Brizzi, Gli psicoatleti, pubblicato da Dalai, 512 pagine, 20 euro. Brizzi è l'autore che aveva conosciuto la notorietà giovanissimo con Jack Frusciante, uscito dal gruppo, e che si è dedicato molto a questa attività in questi anni. Anche nella sua scrittura ha seguito due filoni, quello dei libri di fantastoria ambientati in un'Italia che vince la Seconda Guerra Mondiale e assiste alla pacifica uscita di scena di Mussolini intorno agli anni 60, e il filone appunto dedicato ai viaggi a piedi, di cui sono usciti già due volumi, Nessuno lo saprà e Il pellegrino dalle braccia d'inchiostro. In questo libro la missione dei camminatori è più impegnativa. In occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, un gruppo di amici decide infatti di intraprendere un viaggio della penisola a piedi. La loro avventura si incrocerà con un gruppo un po' esaltato di eredi di un'associazione, la Società Nazionale di Psicoatletica, fondata nel 1860 e recuperata ai giorni nostri dall'erede di uno dei fondatori, che erano stati un patriota risorgimentale, un aristocratico ginnasiarca che aveva addestrato alla ginnastica la nobiltà sabauda dei suoi tempi, e un occultista. E il romanzo segue dunque le vicende, in alcuni punti drammatiche, del vecchio sodalizio, che pure aveva dato vita nel 1861 a un'iniziativa analoga, quello del viaggio a piedi per l'Italia da poco unita, e le vicende, invece queste in certi punti comiche, del gruppo di ragazzi di oggi che scoprono l'Italia percorrendola a piedi. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno Enrico Brizzi. Buongiorno Salvatore, buongiorno a tutti. Enrico Brizzi, questo libro secondo lei è più un reportage nell'Italia di oggi o più un romanzo, e anche in certe pagine un romanzo storico? Ma credo che come i libri d'avventura di una volta nasca da dati di cronaca, e quindi si ispira a un viaggio vero, quello di Italica 150, i 2191 chilometri sono stati fatti a piedi veramente, e poi la fiction, come si dice, o comunque la storia d'avventura prende il sopravvento sul resoconto realistico. Ecco, allora avviciniamoci al titolo. Perché psicoatleti? Che cosa rappresenta questo termine? Addirittura nella versione originaria, quella di 150 anni fa e più, gli psicoatleti erano quasi i membri di un ordine cavalleresco, o così si vedevano? Sì, gli psicoatleti si definivano gentiluomini d'azione, gentiluomini erranti. Era un club sostanzialmente di nobili e meno nobili, comunque gentiluomini, diciamo, che condividevano la passione per la vita all'aria aperta e per i grandi viaggi a piedi. Gli psicoatleti di oggi, protagonisti del mio romanzo, sono dei 30-40enni di oggi che riscoprono questa tradizione antichissima, quella dello spostarsi a piedi attraverso lo spazio per conoscere meglio il proprio paese, se stessi e gli altri. Ecco, in questa riscoperta voi insistete molto, lei insiste molto nel romanzo, che c'è una differenza dai semplici passeggiatori della domenica, come li chiamate, insomma c'è qualche cosa di più nel modo in cui i protagonisti di questo romanzo affrontano anche questa missione di percorrere a piedi l'Italia. Sì, diciamo che tranne i boscaioli e i pastori, tutti noi siamo camminatori della domenica in primo luogo, tutti nasciamo come bambini recalcitranti trascinati in gita dai genitori verso qualche baita o rifugio, poi c'è qualcuno che si innamora di questo modo di spostarsi perché si rende conto che camminare a piedi, oltre che un modo per trasferirsi attraverso lo spazio, è soprattutto un modo affascinante per viaggiare nel tempo, che si parta nel 1861 come i pionieri della Società Nazionale di Psicoatletica o nel 2010 in occasione dei 150 anni del paese, come è capitato a me e ai miei soci l'anno scorso. Dopo 4-5 giorni a piedi ti rendi conto di avere varcato una linea, per cui il tuo passo non è né più lungo né più breve di quello degli uomini dell'anno 1000 e il tuo corpo si sta adattando al ritmo sempre uguale della marcia. Non a caso diciamo fra noi che chiunque abbia percorso 100 km a piedi in 3 giorni portando su di sé il proprio bagaglio in compagnia di almeno un amico può definirsi a buon diritto psicoatleta. Non serve una tessera, è una vocazione. È una condizione anche. Senta, a proposito del viaggio in Italia, dunque, verso la conclusione a un certo punto le scappa detto: non sai più tanto bene cosa pensare nemmeno del tuo paese. Ecco, alla fine del viaggio lei cosa pensa del suo paese? Ma penso che sicuramente ero partito con un sacco di idee preconcette, di pregiudizi, che hanno a che fare soprattutto con questa regione fatta così, quest'altra è fatta colà, mentre nella realtà ci si rende conto che, facendo un esempio al nord e uno al sud, il Veneto è senz'altro un posto dove ci sono capannoni industriali, piccole imprese, può essere difficile entrare nei paesi lungo i sentieri perché ci sono tante rotonde e tante zone industriali, ma è anche una regione fitta di piste ciclabili e di argini di torrenti lungo i quali si può camminare con grande agio. Al sud potrei dire la Campania, è sempre sulle prime pagine per motivi che hanno a che fare negli ultimi anni con lo smaltimento dei rifiuti, e da fuori si può avere l'impressione che la regione sia completamente sommersa, mentre in realtà è anche la regione in cui ci sono le montagne del Sannio, la provincia di Benevento e di Avellino, che sono posti verdeggianti come non meno delle Alpi, insomma. Per cui in realtà quello che mi è rimasto da un viaggio del genere è capire che ogni posto è molto più complicato di come appare nei luoghi comuni, nelle barzellette, nelle descrizioni brevi, e che gli italiani sono 60 milioni, noi non abbiamo incontrati 60 milioni, ne avremmo incontrato qualche migliaio, 100 sono state le persone che hanno camminato con noi per almeno una tappa da nord a sud, ma quello che penso di poter dire è che siamo veramente tutti diversi e la ricchezza del nostro paese probabilmente sta proprio in questa grande varietà di tradizioni familiari, di persino campanilismi, di modi diversi di fare vino e cucinare la pasta, e che hanno a che fare con il nostro passato, che è un passato composito, quindi ricco di influenze. Queste influenze possono essere la nostra ricchezza e quello che davvero ci rende diversi da tutti gli altri paesi ai quali amiamo confrontarci. Ecco, a proposito, torniamo qualche pagina su e torniamo al nord. A un certo punto Elvio dice che il vero problema del nord è la mancanza d'amore. Condivide lei questo pessimismo? È quello che dicono tutti i miei amici che gravitano intorno a Milano. Poi ci gravito anch'io, ma chi ci sta fisso, diciamo, si lamenta sempre del fatto che appena si muove fuori gli sembra che di vedere tanto più amore che in città. Milano è una città a cui io sono legato per motivi familiari e ancora più per il fatto che è la città che mi ha permesso di fare della mia passione il mio lavoro, è la capitale dell'editoria italiana e io scrivo storie, per cui lungi da me volerla giudicare con 2 o 3 battute. Quello che posso dire è che è vero che è una città che incita a trattenere i propri sentimenti. Ecco, un ultimo accenno a una frase che ricorre nel libro, quella secondo la quale educare non è a questo che servono i viaggi, scrivete, quindi una raccomandazione anche a chi affronta i viaggi in questo periodo. Sì, i viaggi penso che siano sempre educazione, sia che ce la si impartisca da soli come autodidatti, dandosi una disciplina, decidendo che ogni giorno dovrei rispettare una tabella di marcia, e in questo questo senso sono molto più istruttivi che fare un'ora di tapirulani in palestra al chiuso, perché ci sono molte più variabili, resti fuori 8, 9, 10, 12 ore al giorno, incontri cristiani, cani randagi, animali di ogni specie, e soprattutto incontri in una grande quiete l'unica persona dalla quale non ti potrai staccare mai, cioè te stesso, e in questo senso sono sempre molto educativi. Poi all'interno di una squadra, un gruppo, un drappello di persone che camminano insieme, c'è sempre qualcuno più esperto dal quale gli altri imparano qualche cosa che ha a che fare con la tecnica del viaggiare, ma non c'è nessuno di noi che non sia abbastanza ricco di doni, diciamo, da non avere qualcosa da insegnare agli altri, anche in silenzio, senza il dito levato e ora vi farò una lezione. Io credo di aver imparato qualcosa ogni volta che sono partito con lo zaino in spalla da ognuno dei miei compagni di viaggio, comprese le mie figlie con cui sto camminando in questi giorni sulle Dolomiti, quindi non è questione di saperla più lunga, questione proprio del fatto che siamo ognuno diverso dagli altri, ognuno di noi osservando gli altri può avere parte dei doni che la natura ha regalato loro. Bene, grazie a Enrico Brizzi, autore degli Psicoatleti. Buona domenica e buona passeggiata. Buona domenica Salvatore, buona domenica a tutti gli ascoltatori, grazie mille. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parlavamo dunque del camminare e ho fatto un cenno ai pellegrinaggi. I pellegrinaggi sono diventati di gran moda, le passeggiate spirituali, non c'è soltanto Santiago di Compostela, in Italia per esempio ci sono molti cammini, tra i quali uno dei più famosi è il Cammino di San Francesco, al quale è dedicato il libro di Carla De Bernardi, Tutte le strade portano ad Assisi. L'autrice è una fotografa ed esperta di cammini medievali, questo libro ha pubblicato con Mursia, 256 pagine, 17 euro. Il Cammino di San Francesco parte dalla costa romagnola per raggiungere Assisi in 12 tappe, poi ci sono due varianti, una che parte dalla Verna e arriva a Poggiobustone in Lazio e l'altra variante ancora, quella che da Città di Castello porta a Citerna in Umbria passando da Perugia e per proseguire poi per Roma. L'autrice compie questo pellegrinaggio con un amico alla fine di agosto e nel libro non ci dà soltanto un diario di viaggio con la scoperta di luoghi spesso tanto sconosciuti quanto affascinanti nel cuore del nostro paese, ma anche ci offre un incontro con tanti personaggi, a partire proprio naturalmente da San Francesco e naturalmente anche di un incontro profondo con se stessa, visto che, ricorda la De Bernardi citando David Le Breton, camminare significa aprirsi al mondo. L'atto del camminare immerge in una forma attiva di meditazione che sollecita la partecipazione di tutti i sensi. Chi voglia seguire questo percorso per scoprire San Francesco troverà utile, una volta arrivati ad Assisi o magari prima, leggere il libro di uno storico francese, André Vaucher, che a San Francesco ha dedicato la biografia Francesco d'Assisi tra storie e memorie, pubblicata da Einaudi, 378 pagine, 35 euro, curata da Grado Giovanni Merlo. Su San Francesco le biografie si sono moltiplicate nel corso dei secoli, ognuna di esse è espressione di un'interpretazione particolare, specifica, precisa e a seconda dei tempi naturalmente è anche cambiata l'immagine che di quel santo ci siamo fatti e quindi l'autore ha voluto fare, come spiega nel libro, uno studio non soltanto per ricollocare la figura di San Francesco nell'ambito di un'interpretazione storiografica autentica, ma soprattutto per esaminare come sia nato e che cosa abbia rappresentato il mito di San Francesco. Perciò, dopo le pagine relative alla vita e alla biografia del santo, il libro analizza la costruzione della sua immagine, per concludere con un'analisi sul significato dell'insegnamento di Francesco, che in molti punti fu uno sconfitto e proprio per questo, conclude Vaucher, fu espressione di una forza di contemporaneità, come la chiama l'autore, che contribuisce anche a spiegare la forza perenne del suo culto. Un viaggio completamente insolito, abbandoniamo adesso i piedi, potremmo dire anzi un viaggio decisamente un po' matto, è quello dell'inglese Roger Deakin, che descrive l'insolita avventura alla quale si dedicò nel 1996, ossia un viaggio a nuoto attraverso la Gran Bretagna. E questo appunto è il sottotitolo del libro Diario d'acqua, pubblicato da Editi, 396 pagine, 20 euro, tradotto da Elisa Comito. di chi non è più giovanissimo, ha più di 50 anni, morirà 10 anni dopo, è rimasto solo a un certo punto della sua vita, ama nuotare ma è stufo delle piscine e decide perciò di partire dalle isole Scilly per immergersi nell'arco di 2 anni ovunque gli sia permesso nel suo paese, in Gran Bretagna. Il libro naturalmente è insolito, troviamo molti tratti autobiografici che si intrecciano con le osservazioni naturalistiche e con la descrizione di paesaggi assolutamente straordinari, anche con qualche avventura determinata dal fatto che non tutti e non sempre condividono le performance dello scrittore e non soltanto si meravigliano ma addirittura vogliono ostacolarlo quando si tuffa in alcuni punti particolarmente privati, diciamo così. Ma facciamoci spiegare il gusto del nuoto proprio dal libro. Più ci pensavo, più l'idea del viaggio a nuoto mi ossessionava. Nei miei sogni l'acqua diventava una presenza sempre più esclusiva. Il nuoto e il sogno si facevano indistinguibili. Mi andavo a mano convincendo che seguendo l'acqua, scorrendo con lei, sarei riuscito a penetrare sotto la superficie delle cose, a imparare qualcosa di nuovo. Forse anche su me stesso. Nell'acqua tutte le possibilità sembravano estendersi infinitamente. Libero dalla tirannia della gravità e dal peso dell'atmosfera, cominciavo a vivere l'impresa come una sorta di ricerca spirituale medievale. Nel racconto La spada nella roccia, quando Merlino, come parte dell'educazione del futuro re Artù, lo trasforma in un pesce, l'autore osserva: poteva fare quel che gli uomini hanno sempre desiderato, cioè volare. Praticamente non c'è differenza tra volare nell'acqua e volare nell'aria. Era come nei sogni della gente. Un viaggio altrettanto insolito in Gran Bretagna, ma questo di nuovo a piedi, è quello di Winfried Georg Sebald, lo scrittore tedesco di nascita, poi stabilitosi in Gran Bretagna, morto 10 anni fa, che pubblica con Adelphi Gli anelli di Saturno, un pellegrinaggio in Inghilterra, 308 pagine, 20 euro, tradotto da Ada Vigliani. Il punto di partenza è simile a quello del viaggio acquatico, una condizione di disagio personale spinge lo scrittore nell'agosto del 1992 a un viaggio a piedi nel Suffolk. E ne viene fuori questo libro, tutt'altro che un diario di viaggio semplicemente, anche se ci sono delle avventure interessanti, per esempio alcuni in ambito alimentare, ma viene soprattutto fuori uno spunto di riflessioni relative a personaggi e luoghi incontrati anche solo virtualmente. C'è per esempio il declino di una certa Inghilterra, quella delle grandi famiglie patrizie decadute, un esponente della quale di nome Caterina richiama alla mente dello scrittore la sua omonima santa, la sua alter ego, anzi, scrive Caterina da Siena, in una stanza vuota e poi lontana dalla casa del padre, sfinita dalla calura del giorno, dai rovi e dalle pietre. E affascina nel libro di Sebald proprio questo continuo rimando a vicende lontane, tenute insieme, scopriremo poi alla fine, da un esile, e non soltanto figurativamente, filo, quello della seta e della sua cultura. Di Sebald è uscito un delizioso libricino, sempre con Adelphi, su un viaggio in Corsica, si intitola Le Alpi nel mare, 74 pagine, 6 euro, tradotto da Ada Vigliani, e troviamo qui 4 spunti ad Ajaccio e in giro per l'isola per cogliere prospettive inattese di questa meravigliosa isola del Mediterraneo. Agli appassionati di nuoto e di escursioni subacquee segnalo invece di Edgardo Fiorillo e Tessa Gelisio Le più belle immersioni d'Italia, pubblicato da Mursia, 344 pagine, 23 euro, da Portofino al Conero, passando per tanti altri punti meravigliosi delle coste delle isole italiane, una guida ai luoghi e alla natura sopra e sotto l'acqua, ma soprattutto sotto, con l'indicazione e le spiegazioni dei punti più affascinanti e sugli aspetti che vi si possono incontrare, pesci e non soltanto. Siamo in mare e quindi volgiamoci a un elemento irrinunciabile dei panorami marini, cioè il faro, che diventa protagonista del libro di Enrica Simonetti Luci sull'Adriatico, Fari tra le due sponde, pubblicato dalla Terza, 112 pagine, 12 euro. Abbiamo qui testi e immagini molto belle per queste costruzioni che fanno comunicare il mare Adriatico. Costruzioni che conosceremo meglio dal libro, non soltanto quelle della costa italiana, ma anche quelle degli altri paesi che si affacciano sulle coste adriatiche. Molti di questi fari ormai sono abbandonati, alcuni sono ancora in funzione, tutti sono sempre affascinanti e tutti evocano avventure spesso misteriose, come per esempio l'attentato terroristico alle Tremiti nel 1987 o le risse tra famiglie di faristi baresi per questioni di donne. C'è il faro, l'unico, scopriamo, governato da una donna, e c'è il faro dove lavora un farista, figlio di farista, che ricorda ancora quando a Gallipoli un barchino accompagnava una maestra che veniva a dare qualche rudimento di lettura e di matematica ai bambini che abitavano nel faro. Un libro invece per famiglie in viaggio che abbiano come meta l'India è quello di Andrea Bocconi, uno psicoterapeuta che pubblica con Guanda India formato famiglia, 188 pagine, 13,50 €. Appassionata di quel grande paese, una coppia decide di tornarvi con i figli che hanno 10 e 7 anni. Il viaggio inizia nel segno del trauma dell'attentato a Mumbai, non quello recentissimo ma quello di alcuni anni fa, che non distoglie però la famiglia che ha organizzato il viaggio appunto a misura di bambino. E qui troviamo il diario di questa avventura, un taglio particolare che ci permette di conoscere sotto un'angolatura insolita l'India. I ragazzi non mi sembra che risultino particolarmente affascinati dal clima che tanto elettrizza i genitori, apprezzano particolarmente dell'India aspetti che con l'India c'entrano poco, per esempio gli alberghi, tornerebbero volentieri soltanto in un albergo a 5 stelle. Quindi, se il libro è fatto per entusiasmare i figli, forse non è lo strumento più adatto, ma certo il libro è adatto per affrontare la conoscenza dell'India. Chi invece ha come meta il sud degli Stati Uniti, ma qui ragazzi non c'entrano, potrà portarsi dietro un classico su quelle terre, cioè La via del tabacco di Erskine Caldwell, pubblicato da Fazi, 218 pagine, 18,50 € ed è tradotto da Luca Briasco. Caldwell è stato un autore di straordinario successo, raggiunto dopo anni di solitudine e di povertà. Questo libro è del 1932 ed è considerato universalmente come uno dei suoi capolavori, da cui venne anche ricavato un film da John Ford e uno spettacolo teatrale di Luchino Visconti. La storia è fosca, l'ambiente particolarmente disperato, ma il fascino del libro è indiscusso per la capacità di fotografare un destino amaro e immutabile ben lontano dalla geografia del sogno americano e del sud in particolare. Un altro viaggio possibile è quello di Sarah Glidden, che ci invita a capire Israele in 60 giorni anche meno. Questo è il titolo del libro, pubblicato da Rizzoli, 208 pagine, 17,50 €, tradotto da Elena Löwenthal. L'autrice è una giovane disegnatrice americana, questo infatti è un graphic novel, un fumetto, che visita Israele grazie a un invito di un'agenzia del governo che invita appunto i giovani di tutto il mondo a visitare Israele. L'autrice accetta l'invito, ma è molto prevenuta, non vuole assolutamente cadere in quelle che teme saranno trappole propagandistiche, quindi fa di tutto per conoscere la realtà e dovrà appunto nel giro di 60 giorni cambiare molte idee, rivedere molti pregiudizi, comprendendo che la verità è sempre molto più complessa degli orientamenti politici o ideologici. E a questo punto il confettino. Completiamo la nostra rassegna di viaggi inconsueti andando fuori dalla Terra con Notizia dallo spazio di Andrea Valente, 124 pagine, 12 €, tradotto da Gallucci. Partendo da notizie e immagini sulla conquista dello spazio, troviamo qui una serie di racconti che fanno accostare i più piccoli alle tappe di una conquista, quella dello spazio, che ha segnato la vita e l'immaginario dei loro nonni e dei loro genitori. E con questo ringrazio Guido Scotti redazione e Pietro Lacorti regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Buona domenica a tutti e appuntamento la settimana prossima.